Sono le sette spaccate. Qualche secondo, 10 secondi, roba così. Negli studi di Rock FM siamo pronti per l'ennesima diretta, l'ennesima avventura targata pane, burro e rock and roll. La puntata 129 al suo inizio, come è giusto che sia, con una sigla. Buongiorno dall'Ariele. Anche oggi pronti a combattere contro i mulini a vento. Ma così, dai, tanto per fare un po' di rissa, no? Pane, burro e rock and roll. C'è anche Mister Trombetta. La tua colazione rock. Tracu, tracu, tracu, tra. Pane, burro e rock and roll. Vi state allenando per fare i musicisti rock con la bocca? Oppure no? E devi curiti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Se vi andrà di restare in nostra compagnia, sappiamo che giorno dopo giorno crescete, vi moltiplicate, è come un virus quello di Rock FM, passa attraverso le orecchie. Quindi è quasi impossibile non farlo entrare. Dovreste andare in giro con dei tappi per batteristi oppure con le dita nelle orecchie, ma non funziona. Il saluto vi arriva anche dal nostro regista Spadino. Prima o poi parlerai, Spadino? No, meglio di no. Te lo impedirò io, altrimenti ci ruberai la scena. E questo non vogliamo che avvenga. La scena deve essere tutta mia e al massimo la condivido volentieri, un pezzettino, uno spicchietto con Roberto Friccantoni, direttamente da Bologna, intellettuale di riferimento e rocker bolognese, che quotidianamente viene a tenerci compagnia fino alle 9. Costruiremo insieme questa puntata, fatevi sentire, non restate lì nel vostro guscio. Buona giornata amiche, buona giornata amici. Iniziamo con Smoking in the Boys Room. Si inizia con una sigarettina. You ever seen there one of those days where it just seems like everybody's getting on? Ma che stai a dire? Ma canta, va? Well, you know, I used to have them just about all the time. But I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Smoking in banda Boys Room, bel blues rock per iniziare la mattina. Spadino, non iniziamo così, ti prego. Iniziamo a sbagliare le basi che mi arrabbio comunque. Ci siamo capiti. Scusate, il mio regista che a quest'ora della giornata, ma a dire il vero anche nel resto, poi nel prosieguo della giornata, non è che sia messo molto bene. Un lampione crepuscolare ancora acceso lì, che ci guarda, che ci fissa, che getta la sua luce timida sulle nostre menti malate. Mi piace dedicare un attimo di poesia al nostro lampione crepuscolare. Intravedevo in quella che potrebbe essere la prima community di Pane, Burro e Rock and Roll, ovvero il nostro spazio su internet, myspace.com/paneburrofm, che qualcuno inizia a parlare di raduni di tesserati con patente davvero rocker, di raduni di non tesserati, e spesso e volentieri salta fuori il lampione crepuscolare. Sì, la trovo una bella idea. Da ieri in realtà è saltata fuori anche un principio di idee per organizzare un Bija Day comune. Decidiamo un giorno dove non si va a lavorare, venite tutti qua e si fa una festa. Potrebbe essere interessante. Intanto, per venire qui negli studi di Rock FM, vi lascio un paio di coordinate che potrebbero servirvi, potrebbero tornare utili nel corso della giornata. Un numero di SMS: 335 100 77 77. Ci diamo il buongiorno, ci dite cosa state combinando, ci raccontate quanto è duro essere un vero rocker là fuori, nella giungla d'asfalto delle metropoli italiane. E una casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Noi cosa vi diamo in cambio? Beh, insomma, ragazzi, noi curiamo le vostre orecchie come nessun altro sa fare in tutte le altre stazioni radiofoniche, perché solo noi all'alba delle 7:07 serviamo roba così. We come on this loop, John B, my grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broke. See how the main sail, see how the main sail, call for the captain ashore. sentito ringraziamento alle Ferrovie dello Stato che giorno dopo giorno trasportano il piccolo ma interessante Roberto Fricantoni fino a Milano negli studi di Rock FM. Buona giornata, maestro! Buona giornata a tutti! E mi scusi per il piccolo ma interessante, spero non si sia. No, assolutamente, l'ho colto con molto piacere. E volevo iniziare la puntata di oggi dicendo la seguente verità. La dica. Dopo il 13 segue sempre... Il 14. Il 14. E infatti oggi è un 14 di novembre che non possiamo affrontare senza un classico almanacco del giorno che fu. Yeah, Wednesday, mercoledì. Andiamo nel lontano 1851. Venne pubblicato Moby Dick del grandissimo Melville. Bravissima la fissazione di un uomo di mare, sì, che decide di catturare il l'uomo suo incubo. Contro la natura. Sì, l'uomo contro la malvagità della natura. Passiamo invece a fare gli auguri alla British Broadcasting Corporation, detta anche BBC. BBC. Complimenti, grazie. Complimenti. Che nasceva perfettamente. Nasceva con le trasmissioni radiofoniche nel Regno Unito il 14 di novembre del 22. Salutiamo spesso la BBC dai microfoni di Rock FM. Ma sì. Sarà che stiamo puntando all'Inghilterra? Ci sta. Ci sta. Ma io ho un bel contratto in pound, lo prendo volentieri. Volentieri, ma anch'io volentieri, perché il pound c'ha sempre la sua bella fascino. Quotazione, certo. Il suo bel fascino. Ma... mi dica. Preme ricordare che il 14 novembre del, sì, 1969, dica, lei sa che sugli anni 60 io sono sempre in, sì, fibrillazione. Fibrilli allora. Fibrillo allora, 300.000 pacifisti a Washington. E la metà esatta, questo però mi suona strano, non so perché mi suona strano. 150.000 a San Francisco. Crumiri di San Francisco, vi taneremo. Esatto. Nel 1969 dimostrarono contro l'atteggiamento americano, per così dire, dimostrarono contro la politica, sì, americana in Vietnam. Oh. E l'inno del corteo, sa qual era? Give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Anche voi là fuori, all we are, date alla pace una possibilità. E beh, che c'è? We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. She said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like it's dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. that scar remain. Che gran verità, ogni rosa, per quanto bella che sia la sua spina, così cantavano i Poison in Every Rose Has Its Thorns. Anche noi, Pane, Burro e Rock and Roll, una bellissima rosa, abbiamo le nostre spine. Ogni martedì e giovedì diamo i numeri del lotto e puntualmente ogni mercoledì e venerdì vi facciamo sapere che non sono usciti, e questa cosa inizia un po' a pesarci. Speriamo di riuscire ad azzeccare qualche numero prossimamente, ma vorrei andare con un primo collegamento con un amico là fuori che con difficoltà riesce a sentire il segnale di Rock FM, perché abita in una città dove Rock FM non arriva. Lui, da quello che ho intuito, ci ascolta via satellite. Vorrei iniziare la puntata con un po' di sano razzismo meteorologico. Si chiama Gianfra e ci ascolta dalla città del sole e lumare. Dico bene, Gianfra? Sì, anche perché in questo momento non c'è nessun sole che splenda per il momento. Gianfranco da Napoli, piove che Dio la manda. Oh, granché, mudire. Senti, volevo fare appunto questo gemellaggio, visto che a Milano solitamente, no, qua piove, c'è la nebbia sempre, così dite. Oggi invece è una giornata bellissima. Ah, non lo sapevo. Guarda, te lo dico io con mi fa piacere sapere che almeno oggi a Napoli piove, qua no. Vabbè, ma tanto domani con le previsioni un friccantun promette bel tempo pure a Napoli. Tu dici? Sì, sì, lo dico. Speriamo. Ragazzi, Gianfranco ci ascolta tutte le mattine, tra l'altro si sveglia anche prima apposta, mi confessava. Che sì, uomo. Sì, mandano anche i messaggi. Che uomo, Gianfranco. Ringrazio. Senti, ma a Napoli a mille colora, come state vivendo questo inizio di Natale anticipatissimo? Qua arrivano segnalazioni di luminari a Milano, a Firenze, a Napoli, solitamente la sentite come festività ancora di più, che non qui, stiamo già illuminando la città? Da meno, però le vicinanze a San Gregorio a meno già sono pronti per i pastori. Ah, in che senso per i pastori? Per i pastori, io abito in una zona vicino, io sono al quartiere Forcella. Esatto, poco a più passi di me a Via Duomo, passando per l'incrocio per San Biagio di Ribrace e San Gregorio a meno, c'è la bottega dei pastori. Ovvero? Ovvero degli artigiani che fanno dei presepi, pastori a mano. No, ho capito, il classico servizio televisivo del TG4. No, assolutamente no. No, aspetta, perdonami, ogni anno c'è il servizio con il personaggio nuovo da mettere nel presepe, di solito. Ah, sì, ma tutti però. Ci sono tutti. E senti, ma personaggi del rock da mettere nel presepe se ne trovano o no? No, però potrei dare un'occhiata oggi pomeriggio in modo che te lo faccio sapere. Gianfranco, devi assolutamente controllare. E tra l'altro dovremmo lavorare. Tu non ne conosci qualcuno personalmente di questi qui? Purtroppo no, però c'è stato qualcuno che hanno fatto un pastore di un comico napoletano che lavora in una radio. Ah! Allora scusa, chiediamogli se ci fanno, che ne so, uno Zio Osborne, oppure i Rolling Stone, i Beatles ci saranno nel presepe. Penso che qualcosa dei Beatles in passato l'hanno fatto. Allora controlliamo, bravo Gianfra, e mi sembra un'ottima idea questa. Controlliamo il presepe napoletano se ci mette dentro un friccichino di rock oppure no. Intanto goditi questa bella giornata di pioggia a Napoli, caro Gianfranco. Sì, domani sole, voglio. Ci sentiamo presto, ciao. Ciao bello. Ya ta tira ti ta tira ta tira tira ta wey. And you swore that you loved me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. But your ring che figata sto programma, raga!